Abbiamo qui il trattato di Makot. Makot significa letteralmente giocare a questo rischio. E botte. Quello è Makot. Makot significa botte. È un riferimento alle frustate. Come sappiamo, esistono nella Torah diverse conseguenze per alcune azioni. Esiste nella Torah il concetto di una pena capitale, esiste nella Torah il concetto di frustate come punizione per diverse situazioni che vedremo più avanti. Abbiamo nell'ordine delle Mishnayot, abbiamo sei ordini della Mishnah e abbiamo uno degli ordini della Mishnah che si chiama Nezikin. Nezikin significa letteralmente danni e va a coprire le regole di tutti i tipi di problemi che ci potrebbero essere, problemi civili tra le persone, e anche problemi penali. E quindi abbiamo un grande trattato che si chiama Sanedrin, trattato di Sanedrin, che tratta tutte le norme che riguardano i giudici, come si devono comportare in determinate situazioni. E abbiamo un altro piccolo trattato che si chiama Makot. Secondo alcuni il trattato di Makot faceva parte in origine del trattato di Sanedrin, e tra questi alcuni c'è chi dice era prima di Sanedrin, c'è chi dice era successivo a Sanedrin, ma noi lo abbiamo come un trattato distinto, comunque legato a Sanedrin, come vedremo più avanti quando approfondiremo un po' nella Gemara. Come base, il nostro trattato parla di soprattutto tre concetti, e infatti ci sono tre capitoli in questo trattato di Makot. Il primo capitolo, che è quello che approfondiremo prima, chiaramente parla di un certo tipo di testimonianza falsa, che tra qualche minuto vedremo di cosa si tratta. Il secondo capitolo parla di coloro che hanno l'obbligo di andare alle città rifugio, di cui abbiamo parlato non tanto tempo fa nella Parashah, e cioè una persona che ha ucciso un'altra persona, ma non volontariamente, non intenzionalmente, si protegge scappando verso le città rifugio. E il terzo capitolo parla proprio della punizione del Makot, delle Malkut in ebraico, e cioè le frustate, dove esiste questa punizione e come viene gestita. Ora vorrei citare qualche versetto dalla Torah che abbiamo letto non tanto tempo fa nella Parashah di Shofetim. Shofetim è anche una Parashah che dà molte indicazioni ai Shoftim, cioè ai giudici. Quindi molte delle mitzvot a cui si fa riferimento in questi trattati di Sanedrin e Makot hanno fonte, tra l'altro, nella Parashah di Shofetim. Allora, nella Torah è scritto nella Parashah di Shofetim, in particolare al capitolo 19 del libro di Devarim, al verso 16, è scritto: Chi yakum ed Hamas be'ish. Se un falso testimone dovesse alzarsi contro un uomo che ha testimoniato in un giudizio per invalidarlo, la anot bosara, cioè un testimone vuole invalidare un altro testimone che ha dato una testimonianza in un giudizio, in che maniera lo vuole invalidare? Dicendo che non era presente al fatto oggetto di giudizio. Tu vieni e dai una testimonianza, dicendo io ho visto così e così, arriva poi un altro testimone e dice com'è possibile che tu dici di aver visto così e così, se quel giorno e in quell'orario eri con me in un altro posto, rispetto al posto in cui hai detto che è accaduto così e così. Allora, quando noi diciamo un testimone, stiamo parlando sempre di due testimoni, perché un testimone non è valido per la Torah da solo, devono essere almeno due testimoni. Quindi due dicono una cosa, vengono altri due e dicono: voi come potete testimoniare questa cosa se eravate con noi a Parigi quel giorno? Allora la Torah dice: Ve'amedu shnei ha'anashim. Allora i due uomini e coloro che hanno tra loro una disputa dovranno stare in piedi davanti ai sacerdoti e ai giudici, come normalmente si sta davanti ai giudici, che saranno in carica in quei giorni, quindi con il massimo rispetto, vedareshu hashofetim hetev, e i giudici vaglieranno accuratamente le testimonianze della parte avversa, dovranno approfondire, e ci sono definizioni alachiche per cosa significa approfondire, ora non è il momento. Se troveranno, vehine, se troveranno ed sheker ha'ed, che la coppia testimone è un testimone falso, ok? Sheker anabe achiv, cioè se viene fuori che effettivamente è vero quello che dice la seconda coppia di testimoni, che la prima coppia non aveva in realtà possibilità di vedere quel fatto, e quindi hanno dato in falso questa testimonianza, allora vasitem lo, bisogna fare a questa coppia di testimoni, quella che ha testimoniato in falso, kasher, questa è la parola chiave che bisogna ricordare, kasher zamam la asot le achiv, così come aveva progettato di fare a suo fratello, è ciò che deve essere fatto a loro. Cioè quello che sarebbe stato l'esito, la pena che sarebbe caduta sul soggetto di quale si testimoniava, e che è venuto fuori che loro non potevano fare questa testimonianza per motivo simile a quello che abbiamo detto, allora quella stessa pena teorica ricadrebbe su questo gruppo di testimoni o su questa coppia di testimoni. Diventano complici. Kasher zammam. E da qui come loro hanno progettato. Da qui viene il termine Eidim Zomemin. Testimoni che hanno progettato. Ma è un eufemismo, è un modo di dire sono testimoni falsi, ma non la classica testimonianza falsa, solamente in questo modo specifico, e cioè che viene un'altra coppia di testimoni e testimonia Immanu Hayitem, eravate con noi. E quindi non potevate fare questo tipo di eidut. Qui stiamo parlando di questo tipo specifico di testimonianza falsa solo, e solo in questo caso esiste il concetto che la Torah dice Kasher Zamam, così come hanno progettato, così sarà fatto a loro. Okay. Solo se hanno progettato. Se già effettivamente il giudizio è andato avanti prima che arrivassero il secondo gruppo di Edim, per falsificare la testimonianza del primo gruppo, e la pena è già ricaduta su quella persona, allora non c'è più Kasher Zaman, perché non hanno più progettato, hanno effettivamente fatto, non è più un progetto, lì cambia la regola. Ah, sì. Per dire, stiamo parlando solo del momento tra la sentenza e l'esecuzione della sentenza, non prima e non dopo. È solo in questo arco di tempo, in questa finestra, che esiste la possibilità del zomemin, di questa categoria halachica di testimonianza falsa. Capita al contrario, che lo scagiona, perché la testimonianza è... Cosa significa al contrario? Se prende, due testimoniano che quella persona è innocente mentre invece era colpevole. Questo significa, questa è un'altra cosa. È già sulla persona, questa bravissimo, questa è una testimonianza falsa con un'altra categoria. Qui esattamente stiamo parlando che i testimoni vengono resi invalidi, ma in questa maniera specifica. Cioè, quello volevo dire io, solo da altri testimoni o anche da un giudice? Assolutamente, solamente da altri testimoni. Non è solo l'arco temporale, debbono essere assolutamente smascherati, ma da altri testimoni. Assolutamente sì, ci sono vari criteri. Uno è che devono essere altri due testimoni validi, come minimo. Il due è un numero minimo, possono essere anche 100. Assolutamente, il criterio è che devono essere altri due testimoni. Un altro criterio, quello che abbiamo detto, deve essere solo progettato. Non è chiaro, non ho capito come compensa. All'inizio. Sto solo cercando di fare una piccola introduzione e vedere i dettagli poi nella Mishnah, però ditemi cosa non è chiaro. Nel senso che se la pena va avanti, hai detto, no? Sì. E viene applicata. Poi vengono i due testimoni e dicono a quelli che hanno testimoniato, non è vero, se la pena è stata fatta e quelli due vengono dice, e rendono invalidi questi. Invalidi quelli, però la pena è stata fatta. Qual è la conseguenza di questo? Loro hanno, e la conseguenza è quella di una normale testimonianza falsa. Con questa. Dove sono andati? Sì, dove sono andati contro la Torah, hanno fatto una testimonianza falsa, e bisogna vedere lì cosa è la loro pena, ma non è legata più alla pena che è stata fatta a quella persona. Perché è legata al tempo? No. Non la stessa pena, è solo il problema. Esiste una cosa di eccezione. L'eccezione è una regola particolare. Quello che tu hai progettato di fare sarà fatto a te. Dove esiste questa regola? Solamente quando siamo ancora nella fase del progetto. Perché la Torah dice Kasher Zamam, come ha progettato, non come ha fatto, come ha progettato di fare. Ok, finché non viene applicata. Di conseguenza, finché non è stata applicata la pena, è stata decisa ma non è stata applicata, allora lì esiste questo concetto di Kasher Zamam, che viene fatto a te quello che tu hai progettato di fare all'altro. Basta. Adesso vedremo altri dettagli, altri problemi, ma come concetto generale questa è la descrizione molto sintetica del concetto che si chiama Eidim Zomemin, cioè testimoni falsi ma Zomemin, cioè che hanno progettato e che sono stati smascherati nella maniera che abbiamo detto Imanu Hayitem. Ok? Questa è la prima cosa della quale parleremo nella nostra Mishnah. Ok? Quindi una particolare modalità di testimoni falsi. Ora, ci sono due condizioni generali perché si possa appunto rientrare nel criterio degli Eidim Zomemin, che ho già alluso. La prima, che la sentenza deve essere già stata emanata secondo la testimonianza di questi due che poi saranno smascherati, cioè due hanno fatto una testimonianza e il Beit Din ha indagato sulla loro testimonianza e ha accettato la loro testimonianza e ha deciso, ha fatto una sentenza in base alla loro testimonianza, ok? E di seguito poi vengono altri due che... E la seconda, e il secondo criterio, come dicevo, che però ancora questa pena, questa sentenza non è stata messa in esecuzione. Ok? Questi sono due criteri base. Ora, questa regola, che come dicevo è una regola d'eccezione, questo concetto di Eidim Zomemin, anche se è effettivamente un caso d'eccezione perché devi rientrare in dei criteri molto stretti, nonostante ciò, questo ha un effetto, questa regola, ha un effetto su tutte le altre testimonianze che non sono Zomemin. Perché? Perché esiste una regola secondo la quale, e questo lo spiega la Gemara nel trattato di Sanedrin, la regola è che una testimonianza, che qualsiasi testimonianza, che viene fatta davanti a un Beit Din, deve potenzialmente poter essere una testimonianza Zomemin. In altre parole, quando si fa una testimonianza, bisogna anche indicare il luogo e il tempo in cui accade ciò che si testimonia, ok? Perché ci sia la possibilità di dire, questi due testimoni dicono che in questo luogo, in questo tempo è successo così, in modo tale che se qualcuno lo sente, dice... Questo luogo, questo tempo, com'è possibile? Stavano con noi. In altre parole, una testimonianza per essere valida deve avere il potenziale di diventare Zomemin. Ecco perché, nonostante fosse una regola d'eccezione, cioè applicato a un caso molto stretto, ma ha un effetto su tutte le testimonianze, perché tutte le testimonianze devono poter essere fatte Zomemin. Ok? Ecco perché è così importante. Quella per la Torah è un obbligo processare la testimonianza prima del processato. Assolutamente sì, certo, assolutamente. Sì, è un obbligo assoluto. Allora, significa, se arrivano due testimoni, per concludere questa parte qui, se arrivano due testimoni e dicono, danno una testimonianza riguardo una persona, se non possono dare luogo e tempo, per esempio, o per altri motivi non può essere fatto il Zomemin, la loro testimonianza non è valida. Non la si prende in considerazione. Ok? Quindi l'effetto del Zomemin è molto forte. Certo. Sì? Pena non eseguita. Sì? Che significa? Sulla pena capitale siamo d'accordo. Ok. Però se uno è stato... O le frustate, 30... o ha dovuto fare un pagamento, se non è stato ancora... Ha 30 anni di prigione, faccio esempio, ha cominciato la pena. Quello si fa, non c'è la prigione da noi. No, perché se no, non è contemplata la prigione in questo contesto. No, vabbè, per capire. Sì, sì, sì. Se c'ha 100 puntate, gli hanno date 10. Sì, parleremo di casi d'eccezione di questo tipo, entreremo proprio nel dettaglio. Lo fermano su. Sì. C'è il cellulare. In generale significa che ancora non è arrivato all'esecutivo, è arrivato alla sentenza scritta, ma non fatta. Non eseguita. Ok. Di nuovo, Zomemin è solamente nel caso che abbiamo indicato. Una testimonianza falsa, per esempio, due dicono questo, abbiamo visto uno che ha ucciso, abbiamo visto Tizio che ha ucciso Caio. Ok? Domani arriva Caio al Betin. Allora è chiaro che è una testimonianza falsa, ma non è Zomemin. Volevo dire che sei sbagliato. Non è Zomemin e non c'è il Kasher Zaman. Signori, non è Zomemin e non c'è il così come ha progettato, non si applica questo, ok? Oh. Ora, una cosa molto importante. La Torah ci dice che la testimonianza di due testimoni è una testimonianza valida, ok? Allora, due testimoni dicono così. Arrivano due altri testimoni e dicono il contrario. Allora, quale è più valida? Quello facilitante, per quello lì. No. Cioè, pure sulla Torah, una cosa. Sì, sì. Perché questi due sono meglio di quei due? Qual è la differenza tra i due? I primi due cosa dicono? No, non c'è. Il contrario, due testimoni dicono giorno e due testimoni dicono notte. Due testimoni per la Torah e da 2 a 100 non c'è differenza, ripeto. Perché devi dare più validità a questi che a questi? Come fai a sapere? Se tu fai approfondimento, come diceva Ariel, com'è la mitzvah che bisogna vedere di verificare le parole dei testimoni. Non è che si accettano così, si devono fare certo tipo di domande, si chiama drishot v'hakirot. Però... alla fine, se entrambe le testimonianze sembrano essere valide, ma si contraddicono nella maniera più assoluta, quale delle due devi scegliere? Non la scegli. La Torah dà possibilità a entrambi di essere creduti, diciamo così, perché la Torah dice al Pish, Naim e Dim, Yakum Davar, se ci sono due testimoni e sono validi, non sono parenti tra di loro, non sembra che stanno dicendo bugie, eccetera, eccetera, vengono accettati. Allora due e Dim che confliggono si chiamano Makhishim ze et ze, eidut, una testimonianza mukheshet, che è conflittuale, che è contraddittoria. Si annulla. In teoria, il Bet Din deve accettarle tutte e due, cosa che è impossibile. Si annulla, non... Allora rimane la sentenza in sospeso. Certo. Non si può fare né come uno né come l'altro. Finché non c'è qualche elemento che contribuisce. Esatto. Questo è una testimonianza contraddittoria, non è il Zomemin. Di nuovo, sì, sì. Se per esempio loro, la conflittualità, la parte contraddittoria, problematica tra un gruppo di testimoni e l'altro, è sul soggetto stesso della testimonianza, la persona o l'atto o la situazione, su questo si contraddicono, sono tutti e due validi, non possiamo fare niente, rimane in sospeso. Il Zomemin riguarda solamente i testimoni. Scusa, il soggetto delle due Zomemin sono i due testimoni primi, a cui viene detto voi eravate con noi, viene fatto a loro quello che volevano fare. Se poi vengono due altri dicono voi eravate con noi, come potete testimoniare secondo i primi due che stavate a Parigi, voi stavate con noi a Londra? Questo può andare avanti ad infinitum. Anche però questo i testimoni potrebbero a loro volta essere dire una cosa esattamente, in... esattamente, ok? Scusa Rab, non sì. Conta la quantità dei testimoni, hai detto. Cioè, da due in su non conta. Quindi anche se in generale minoranza non esattamente, qui non c'è il concetto di minoranza o maggioranza. Okay. Il concetto di minoranza o maggioranza esiste all'interno del giudizio, certo. Del Bet Din. Tra i giudici bisogna decidere in base alla maggioranza. non da testimonianza, perché vi dico perché, perché questo, scusa, solo per concludere, perché questo? Perché devo credere più a due che a uno? Perché devo credere secondo questo criterio della edut, della testimonianza? C'è solo un motivo, perché ci sono molte idee logiche che andrebbero contro questa cosa. Il motivo è Gzeirat HaKatuv, significa così è decretato dalla Torah. Ecco perché quando ho due gruppi di testimoni che entrambi sembrano essere veri, autentici, e si contraddicono, devo mettere in sospeso, non posso fare niente. Perché una edut è valida perché così dice la Torah, non per una certa logica. Di conseguenza, devo operare all'interno di questa cornice. Ok? Quindi, la stessa Torah mi dice che in alcuni casi esiste il concetto di Eidim Zomemin. E si applica solo in quei casi. Sì? I testimoni hanno tutti il loro peso specifico, una cosa, cioè ogni persona uguale a un'altra, o c'ha poi praticamente chi è, chi può avere un trascorso... Un testimone più forte? Allora, ci sono... No. Quello che esistono persone o categorie di persone addirittura che sono invalidate come testimoni già dalla partenza. Ok, per cui non valgono proprio. Non vengono prese in considerazione. Per esempio, o se sono due testimoni parenti tra di loro, non è considerata una testimonianza per la Torah. Marito e moglie, queste cose qua. Due fratelli, due cugini, non possono essere testimoni insieme. Seconda cosa, quando dico categorie di persone reshaim, che vengono riconosciuti dalla società e dalla halakha come malvagi, o come ladri o delinquenti, è chiaro che non hanno la ne'emanut, non hanno la fiducia per essere considerati testimoni. Quindi c'è nel Hilchot Eidut, nelle regole della testimonianza, ci sono capitoli dove si approfondisce quali sono le persone e le categorie di persone che sono invalidate per essere Eidim, per essere... No. Per essere testimoni. Ora. No, ragionando potrebbe anche essere un modo per tenere in sospeso diversi processi. Perché comunque... Che cosa potrebbe essere un modo? Questo... Zomemin? Sì. Perché? Perché architettato bene a ogni testimonianza positiva. Ah, dici essere, da parte dei testimoni ci potrebbe essere fatto apposta. Cioè, può essere fatto apposta. Certo, può essere fatto apposta. È facile, cioè è facilitante un po'. Ma deve essere bravo. Sì, però vabbè, rischi la pena. Di non deve essere d'accordo con l'accusato. Sì, però rischi la pena dell'accusato. La giustizia però sempre del Signore, poi alla fine... Sì, certo, vedremo anche questo. Certo. Ora, vediamo un attimino la prima parte di questo trattato. Siete d'accordo? La prima parte del trattato, vediamo un attimino. La Mishnah, si inizia sempre con la Mishnah, trattato di Makot, la prima parola della Mishnah è Keitzad. Questo capitolo... Il nostro capitolo, come dicevo, tratta il concetto di Eidim Zomemin. E il concetto generale di Eidim Zomemin abbiamo già visto in cosa consiste. Ma in realtà la maggior parte del concetto generale di Eidim Zomemin si vedrà non in questa prima Mishnah, ma nelle Mishnayot successive. Nella nostra Mishnah invece si parlerà dei casi di eccezione a quelli regolari di Eidim Zomemin, dove la regola cambia. Ok? E cioè, in che senso cambia? Cambia nel senso che se viene fuori in questi casi d'eccezione che sono i Dim Zomemin, non si applica la pena che volevano applicare. In altre parole, ci sono dei casi d'eccezione dove la pena è diversa. Ok? La Gemara infatti chiederà, dopo quando arriveremo alla Gemara vedremo, perché inizi con l'eccezione? Dovresti iniziare con la norma e poi parlare dell'eccezione. Invece la Mishnah inizia con l'eccezione e vedremo più avanti il motivo. Allora la Mishnah apre con la domanda, Keitzad ha edim na'asim zomemin? Keitzad significa come? In che maniera gli edim vengono considerati, vengono fatti zomemin, letteralmente fatti, cioè come diventano zomemin? e la Mishnah, in maniera strana, risponderà dicendo quali sono quelli che sono d'eccezione, che non sono zomemin nel vero senso della parola. La Mishnah fa un esempio. Meidim anu, se vengono due eidim, testimoni, e meidin, testimoniano, verbo basato sulla parola eidim, ok? Meidin, noi testimoniamo, anu, noi, beish, ploni, riguardo tale persona, peloni, tale persona, che nel caso si tratta, nell'esempio, di un Kohen valido, kasher, che può servire nel Bet HaMikdash, per esempio. Noi vorremmo fare una testimonianza, shehu, che quell'uomo, ben gerusha, è il figlio di un rapporto tra un Kohen e una donna che precedentemente era divorziata. Noi sappiamo che un Kohen non può sposare una donna divorziata, e se lo facesse, il figlio non può essere un Kohen kasher. Non può servire, per esempio, nel Bet HaMikdash o mangiare la terumà. Ok? Non è mamzer. Si chiama halal. È un Kohen invalido, diciamo così. O comunque, si chiama pasul la kehuna. È invalido per la kehuna, per il sacerdozio. Allora, se noi veniamo davanti a un beddine e diciamo, noi testimoniamo che questo che era stato considerato finora un Kohen kasher, in realtà è figlio di una che era prima divorziata, allora non sarebbe più un Kohen kasher, ok? E poi, oppure dicono ben chalutza. Cosa è il figlio di una chalutza? Abbiamo letto nella parasha poco fa che se ci sono due fratelli, un fratello muore senza figli, c'è il matrimonio di Levirato, Yibum. Yibum significa che il fratello rimasto in vita sposa la vedova del fratello morto. Se però non vogliono sposarsi, o lui o lei, allora si deve fare una formula che si chiama chalitza. Perché? Visto che la Torah applica una sorta di legame tra queste due persone, dal momento che muore il fratello che muore, la Torah considera quasi sposati, tra virgolette, la vedova e il cognato. Quindi se non vogliono accettare questo legame, devono addirittura fare un atto come se fosse un divorzio, diciamo così, che non è un divorzio, si chiama chalitza, un atto per rompere questo legame. Questo atto si chiama chalitza. Ora, per la regola della Torah, deoraita, la regola della Torah, un Kohen non può sposare una donna che è stata divorziata prima, ma potrebbe sposare una donna chalutza, teoricamente per la regola della Torah. I maestri, per vari motivi e perché non ci sia confusione tra la chalitza e il get vero e proprio, hanno aggiunto un divieto, non aggiunto, hanno allargato il divieto anche alla chalutza. Hanno detto che un Kohen non può sposare anche una chalutza. Quindi questo è un divieto rabbinico, mentre la gerusha, quella che ha fatto il get, è un divieto biblico. Però, comunque, per quanto ci riguarda, in pratica rimane invalido il figlio sia della gerusha che della chalutza. Come Kohen kasher, non è più Kohen kasher. Allora, qual è la testimonianza? Questo è successo così, voi avete pensato che lui è un Kohen kasher e non lo è, perché o è prodotto di un matrimonio con una gerusha, una divorziata, oppure una chalutza, una che ha fatto il rottura del matrimonio di Levirato. Poi viene fuori che questi Eidim che hanno fatto questa testimonianza sono Zomemin. È venuto un altro gruppo di Eidim, o un'altra coppia, e hanno detto, come potete dire così e così, che voi avete visto il matrimonio in questo giorno, in questo luogo, se voi stavate con noi da un'altra parte. Ok? Allora, in questo caso, non si dice, dice la Mishnah, en omrim, non diciamo, ye assese, che questo testimonio, questi testimoni che hanno detto in falso, lui deve diventare come se fosse ben gerusha o ben chalutza. Ah, ok. Lui deve, cioè se lui fosse Kohen, certo, lo rendiamo lui invalido alla Kehuna, la stessa pena che lui ha voluto infliggere sull'altro. Ela, solamente, che pena gli diamo? Lo che arbaim. Prende le frustate. Le frustate si chiamano Arbaim, 40, perché le frustate devono arrivare fino a 40. In realtà sono 39, ma si chiamano 40. Come le melachot di Shabbat, che sono 39, ma si chiamano 40. Questo è un altro discorso. Comunque, e non possiamo approfondire ogni cosa, sennò, però lo vedremo più avanti comunque, perché si approfondiranno le makot e il numero delle makot. In ogni caso, in questo caso, non si applica il Asher Zammam, così come ha progettato di fare, bensì prende le frustate. Questa è la sua punizione. Ok? Ora, la Gemara spiegherà per quale motivo a loro viene applicata questa pena e non la pena che hanno progettato di fare. Ok? Si vedrà più avanti il motivo, la motivazione. Un altro esempio che la Mishnah dice, un'altra possibilità dove esistono i Dim Zomemin che non viene fatto a loro quello che hanno progettato di fare, è la seguente. Guardiamo il testo. Me'idin anu, di nuovo, noi testimoniamo, Be'ish ploni, di tale persona, Shehu chayav liglot, che lui è obbligato, chayav, ha un obbligo, liglot, di esiliarsi, cioè di andare alla città rifugio che si chiama Galut, esilio. Perché? Perché ha ucciso qualcuno involontariamente o inintenzionalmente. E questi due testimoni di nuovo vengono trovati Zomemin, che dicono questo. In altre parole, adesso verrebbe fuori che non è così, che non ha ucciso nessuno. Allora, in teoria dovremmo dire Kasher Zamam, come hanno progettato di fare, devono andare loro in esilio, devono andare loro alla città rifugio. E Nomrim, dice la Mishnah, non si dice, l'Alaha non è Yigle Zetachtav, vada questo al posto suo in Galut, in esilio, in città rifugio, come si farebbe nei casi normali di Edim Zomemin, e la Loke Arbaim, anche qui, prende le frustate. Ok? Ora, questa è la Mishnah. La Mishnah ha spiegato che ci sono due casi d'eccezione alla regola dei Zomemin. Nel caso dicessero di un Kohen che è reso invalido della Keunah, non è che loro diventano invalidi della Keunah se sono Kohanim o un'altra punizione se non sono Kohanim, ma prendono le frustate. Ulteriormente, se si testimonia di qualcuno che deve andare in Galut, in esilio, in città rifugio, e viene fuori che non è così, non devono andare in città rifugio, devono prendere le frustate. Concludo solamente un pensiero che ho iniziato prima. Quando ho detto che la testimonianza falsa regolare, non Zomemin, si accetta per motivo di Gezerat HaKatuv. Perché così è scritto, perché questa è la volontà di Hashem nella Torah. E quindi se ce ne sono due di testimonianze, non si sa qual è quella valida e quella che non è valida, rimaniamo in sospeso, perché in teoria dovremmo accettarne tutte e due. Il concetto di Zomemin è la Torah stessa che crea un'eccezione a questa regola e dice che invece quando sono Zomemin secondo questo criterio, si annulla sì la testimonianza di due che sembra avremmo dovuto accettare all'inizio e si accetta quella del secondo gruppo, perché loro dicono eravate con noi, loro dicono no, eravamo qui, abbiamo visto che lei, noi eravamo i testimoni del divorzio, quindi questo Cohen è il figlio di una divorziata. Allora perché accettare questi due e non questi due? Esattamente come l'altro caso, dei casi in cui i due gruppi di Edim si confliggono e bisogna accettarle tra virgolette tutte e due e rimanere tutto in sospeso. Per la stessa Gzerat HaKatuv, per il stesso decreto della Torah, in questo criterio di Edim Zomemin si rende sì falsi i due altri testimoni. Non come nel caso della testimonianza che si contraddice tra due gruppi dove non abbiamo motivo per rendere uno falso e uno no. Quindi questo stesso è la Gzerat HaKatuv, che nella maggioranza dei casi due valgono 100, eccetera, e non, se non c'è motivo di rendere invalida la si accetta, mentre se il modo di rendere invalido è immanu hayitem, eravate con noi, e ci troviamo tra il momento in cui è stata fatta la sentenza e prima del momento in cui è stata fatta mettere eseguita, allora in questa cornice esiste il concetto dei dim zomemin. La prossima volta approfondiremo nella Gemara il senso di questa Mishnah. Vabbè, anche... Prego. Però